buonasera anche lì, a piove. Ma è dentro qua, no? Sì, vabbè, ma che dentro da me si è pagissimo. Ma, vittorio, gli argomenti è... Mi sembra che ha messo acqua, ma non penso stanotte. Non penso, nemmeno domani. Ah, a largo o bassa? Però non vedo un po' che l'ha fatta su mangiare. Ne ha fatto parecchio, sembra così, ma ne ha fatto, Vabbè. Almeno così, signor Bacchiglia dice, ah, mai fuggi la terra. Almeno non innaffia più Bacchiglio, se piove. E sono soldi risparmiati. Infatti. Vuole tutto bagnato. A lui non serve acqua, per fare quello che sta facendo mi serve molto l'acqua, per cui già ce l'ha, però se piove meglio ancora, dai, perché l'acqua originale è la cosa più sana che ci sia. Infatti, quella più sana sì di tutta quanta l'altra acqua. Vabbè che da lui già c'è il pozzo lo stesso. Per carità. Comunque, la maggior parte però sta facendo più su che qua, A parte di Orisano e Cagliari, lì sta sempre, non fa tutti i giorni piove. Vabbè, ma adesso inizia il tempo suo piano piano, chissà. Grazie a adorare un gallo. Le farà caldo ancora, c'è ancora. Ancora caldo lo dovrebbe fare, per cui vediamo un po' cosa succede. Si ha rinfrescato un po' là. Però quando non c'è la nuvola scalda il sole. Certo, si scalda, ma adesso c'ho il tempo, mi aspetta e te lo dico. Grazie per un vaghi su di voi, Salvatore, a fare le cose gli ultimi. Ma un poco oggi, un poco la mancia lì, e già fatti lo che burro, dai. Appunto, non voglio, è più già dalla salvaci, ma se ti appunto tutto nuvoloso, qua invece ha messo nuvoloso con il sole e la pioggia. E infatti domani dovrebbe essere così, un po' nuvoloso, un po' il sole, no, insomma, così che se c'è il sole asciuga quello che ha fatto stamattina, che siamo sempre all'inizio. E cosa vedete di qua? Fare così, ma bisogna fare da maniera. Diversamente lo puoi fare. Comanda Edo. Comanda lui. Che invece di viverla la cosa. E bianza pagare, bianza Edo, capito? Edo fate di fare di Edo, capito? Noi preghiamo sempre, però a cantumare fate sempre a piangere giugno. E fa giovi appunto nuvoloso è più il sole. Sole e nuvoloso. Ah, bacere gli appunto. Sole, nuvoloso e pioggia. Vedo un po', magari. Un po' nuvoloso, qualche nuvola di. Qualche nuvola, magari, che barriata magari, da voi ci dorrà il sole. Come ci ha fatto i giroghi, allora c'è sì la vera, sempre i soli, poco poco, ma davvero i soli. Sì, bisogna fare così, bisogna fare. Come fai a fare diversamente, so. Non è possibile, lasciamolo fare, vedrà lui cosa fare, no? Noi, intanto di buona luce, a voi, con i tribiati vaggi, forse. Infatti, siamo così e siamo meglio. E cosa hai combinato oggi? Nulla, pagamenti e boh. Male, uno deve pagare. Deve dare a me, altri pago io. Pagata, l'acqua a Manoa, ma giù pagato. E più che fotocopia, giù fatto. E siamo a posto. Anche quello bisogna fare. a pagare, come c'è drullati lì, si ripigliano. Allora, ma te drullati si ripigliano? Purtroppo, importanti che vi siano. Mauro è cantato per me. Che non c'era Carlo Cubiglialli? Ah sì, Mauro è cantato per me. Cadono di ciò, anche se so poco, però i pocciati riesci a tirare la danzi. Ah sì, questo sì. Un che c'è poco che fa per poter mandare danzi. Ehi, ehi, ma cosa vuoi qua? Io stamattina presto sono sceso in campagna, ho innaffiato, ma gira a faceva me. Da poi di un'oretta si vengo il centro di lampe e droni. Ha toccato a chi c'ha, ogni volta fosse così, questi quando mi davo la macchina, a chi ha tirato pure la macchina, no? Fuori però, non dentro, pure, che ho so bene il garage. Ogni volta faceva, mi davo la macchina io. E allora, aspetta, ma non mi immaginavo, oh, la messa pioveva oggi, dalla messa, così che però non pensavo che fosse veramente così, invece ha piovuto, cazzo, mi ha cuttiggio, mi ha lampo, mi ha drono, ma è cuttuno, cazzo, mi sono coperta succiata, ha giunciaccato tutti i roghi. È così. Purtroppo c'è acqua. Ehi, ma non siamo mai contenti noi, dai. Cazzo, caldo vorremmo fresco, vorremmo caldo. Non siamo mai contenti, per cui. Ah, puoi mi dire, ma sei inviato che fosse? Ehi, se no, facciamo per un attesi. Ah, non vive. Ovviamente, muro. Ma io acceso stamattina, però ho spento subito, sentivo gli scarichi dei lampi, no? All'apparecchio, e tu scesi, allora gli è staccato, al sicuro, è già cominciato, poi abbiamo mentendo. Così, io mi devo fare con la piatta, attaccare al muro per le paracosa, mi devo fare, bisogna che va dentro di lì, dammelo, me la preparo. Come? Con la piastra per non darmi la scossa con l'apparecchio. L'ottore, la piastra l'ottore. Vai da Marcello, caccia, un pezzo che lo fai dare, muore un tassello a muro e attacchi la massa ai ghibi. Ah, ma ce lo dovrei avere, giù, un pezzo di piastra l'ottore. Certo, io faccio così, no, a me me la so, lo genero, che lui fa l'elettricista, e una lì, guarda, secondo me ha smontato anche i piatti telefonici, eccetera, fanno le cabine nuove, eccetera. Una lì ce lo fa la IVA, carburante, che c'ha dei carburanti, e sta giù in sala a piastra. Sarà 15 per 15, sarà un po' buccata. A te la dai questa piastra? Se ti serve prendetela. Già me l'ha sbigliata e l'ha molto di tasselli. E io mi ha attaccato la massa. Va bene, va benissimo. Ma cos'è? In ottone proprio vuole? Ah? In ottone proprio vuole? Ho capito, cioè. Ho detto se vuole proprio in ottone. Rame, diciamo rame ottone, capito? Rame ottone, capito? Quelle cose così, rame ottone, capito? Per la massa bisogna fare così. Che sia un po' grossa, no, che sia fine, no. Attacca muro. Io non l'aglio, se no te l'abbia data. Oh. basta qua, io dico che viso, per cui se ti asse piccole, magari qua sarà una cazzata anche lì. Però io l'ho fatta in sala, così in quella piazza, però qua ho fatto diversamente dove sono io, questa cameretta. Allora ho preso, sono andato dai cinesi e mi sono preso un vasetto di terracotta, di quelli grandi, che sarà 50 centimetri alti. Ha giubilato un pezzo di drafila, da sì, o da otto, si è molto dentro, e la gisaccata di terra, terra e sabbia. Da poi la giubbotto, morsetto, con un capo di quelli di massa, quello giallo. L'ho bagnata e ho riempito l'acqua, quella cosa, quel vaso alto, e ogni tanto si riculo un po' la leva quando si secca, e la massa, ecco, anche la massa, una massa così, l'ho messa qua dietro il tavolino dove c'è la televisione che non si nota, e ho allungato il filo e fino al deviato l'antenna, il deviato l'antenna c'è la massa, invece che l'ho già attaccata lì. Mentre invece là in sala l'ho attaccato alla piastra e l'ho attaccata a una vita del baracchino, capito? Adesso guardo, giù ce la dovrei avere qualche piastra in ottone o in rame e gliela metto. Ma è facile, più facile se metto quel vaso grande. Io magari l'ho messo perché intanto lo si vede dietro sull'angolo qua dove c'è la televisione, non si vede, ma là va benissimo in sala, capito? La massa è meglio, poi è meglio che ci sia una massa, dai, infatti elimina parecchi scarichi. Infatti gli attacco questi che ho, gli attacco questi della 27, non me ne danno di cosa, ma è vidusi che mi dà di una carica, mi ha allargato col gioco, mi dà di una cosa, io vorrei fare scaricare un po'. Comunque fai come ti ho detto io, basta un pezzo anche 10x10, 10x15, capito? Le fai un buco, le metto un tassello a muro, va bene, va benissimo, capito? L'importante è che riesca a togliere un po' di quel reme, capito? Infatti faccio così, gli faccio, lo prendo e gli faccio, metto una vite attaccata, per andare a farmi scaricare un po'. Fallo che va bene, specialmente per l'inverno, che è una cosa che ci vuole, capito? Perché la massa dove c'è la corrente non conviene attaccare, perché lì c'è sempre corrente, capito? Siccome su un impianto c'è una massa, no? Un impianto lì c'è la massa, e molti dicono che l'attacco lì, no signore, perché lì c'è sempre corrente, perché qualche piede ce l'ha sempre. Invece in questa maniera è separato, e per cui corrente non ce n'è, e cioè va benissimo la massa, capito? Attenzione alle prove tecniche di trasmissione. Prove tecniche di trasmissione, anche diciamo a Parigi siamo. Buonasera, vabbè, ogni tanto bisogna farli scaldare, se no funzionano male. E beh, Gianmarie. Certo che si sente, è vero, dopo tanto. L'importante è che ci sia la salute e il lavoro. Ho visto il tuo grecchellone l'altro giorno, da tanto che non lo vedevo. Sì, sarà, vabbè, dall'ultima volta che ti hai fatto una scappata qua. Ogni tanto anche lui va, si prende già male, si fa un giretto, va a controllare un po' di cosette in giro, va, per vedere dove c'è la convenienza. Bisogna uscire, bisogna andare, e mi stanno raccontando un po' i dolori, i dolori, certo, mi dirà giusto che voi a cane che non fa dolori, per carità, per cui, mi sono entrato in malafino, grazie a Dio, potevo camminare ancora lui, sì, o no? Sì, sì, vabbè, adesso mi... diciamo che si è ripreso avanti ieri, perché anche lui aveva qualche dolorino e si è messo molto da fare. E aveva una patella bravissima, non solo perché l'ha fatto la macchina tu. Va Tito. Buonasera, mi sentito dopo di tanto. Bisogna fare prove e scaldare. Allora, ciao. Vabbè, io già meno male lo tengo sempre acceso, volume basso, perché molte volte non mi viene neanche, cioè non ho tempo neanche di poter fare una chiacchierata. Oggi sono entrato un pochino prima, tra virgolette, perché avevo un impegno, però hanno disdetto, quindi mi sono seduto 5 minuti al computer a guardarmi le mail e poi ho alzato il volume perché ho visto la portante in movimento. E c'è sentito, dai. Sì, vabbè, a me fa sempre piacere ascoltare in vecchie modulazioni, non è che, anche perché non è che ce ne siano poi così tante in giro, No, sai, faccio niente, tutti molti sono, tutti i ferie ce ne sono andati, per cui era la mente mia la sera con un sole, un bacchiccio così, perciò che sola, qualche chiacchieratina, 10 minuti, ma durante il giorno, è inutile a sentirlo, ma chi cazzo è, sono 21, ma con anima, ormai computer e telefonino hanno superato tutti gli ostacoli. Allora, mi faccio di aver sentito un altro da un po' lontano, avanti, chi era? Ah, non ne voglio dire entrare, dai. Mettono la gara. Ma come vorrei sbagliare, prima di fare nomi, non volevo riascoltare, mi è sembrata una persona che ho visto stamane, sbagliando metto. Ehi, Vanni, ti ho chiamato per altre cose stamattina, comunque, poi, deve essere che avevi il telefono o è bollato, o spento, o non hai linea di pavidà. Ascolta, ma la casa che c'è il mazzo, dici, dove ci va la centralina? No, quando faccio il tutto, ti schiamo. Scusate, Gian Maria, quando faccio il tutto ti chiamo e poi chiudiamo tutto almeno, va? Già l'ho lasciato il posto, non c'è problema. Va bene, ti mando a Gian Maria per i saluti. Ciao, Vanni, ciao. Alla prossima. Gian Maria, guarda. Che lo saluti allora con la buona, l'abbiamo sentito. E buon proseguimento, vai tu. Ci sentiamo alle prossime. Buonasera. Oh, perché vai a cosa fa? Vai a buttare la pietra e nascondere la mano, entra ogni volta che tappa, quindi vuol dire che domani piove, continuerà a piovere. Di sicuro. vabbè. Lascia fare, che fa bene, fa bene l'acqua. Che abbiamo troppa sete ancora, e qua specialmente. E allora, già va bene. Comunque, tu dici una cosa che era un po' senza accendere la radio. La motivazione è, Gian Maria, cosa ti pare? È un po' forte. E molte volte non riesco a capirla bene. Forse è troppo forte la radio. Ho capito. Vuol dire che devo parlare un po' più rilassato. Perché sono già prepotente di secche. Lasciala così, va benissimo. Ok, vai tu. Infatti, sei un po' grintosa. Se ti rilassi un pochettino, allora sì. No, vabbè, io diciamo che non mi posso ascoltare, quindi molte volte chiedo qualche consiglio. però poi una volta che la posizione, che posiziono mi chiede, non sto lì a toccare, a fare, lascio sempre come mi hanno detto, quindi sto parlando anche a braccio esteso, ti puoi immaginare, in modulazione moderata, quindi la radio suppongo che vada bene così, poi se devo abbassare, devo fare due manovre, però lo faccio ben volentieri. A volte potresti lasciarla anche così, tanto no, allora almeno non mi disturbati, io ti sento tranquillamente, so che ogni tanto un pochettino ti fa aggracchiante. E all'altro mi c'è Luca. Ma facendo c'è? Ogni tanto, dove sei? Buonasera, ma io sto palacchino lo accendo sempre, è dalla 25, da. Allora ti ascolti molto meglio di me. Com'è il lupo? La radio è troppo forte. Beh, aspetta, buonasera a tutti, comunque, scusate che sono come sempre come maleducato. Io sono maleducato, ciao Gio Maria, avanti. Carlo, buonasera, ben risentito. E vabbè, non è che hai disturbato perché siamo i pupi e chiacchierate sono corte, non sono molto lunghe, per cui va bene così. Va benissimo, tranquillo. Ok, vai tu. Buonasera Luca, in caspita. Mi ha dato che altro non entra e ci va dentro in dipogo, vero è? Io gli dicevo a te, ma sì, non c'era nessuno qua, nessuno. Tu hai detto che entravi in questo intervento, il quarto, vabbè, tanto lo riaccendo, vediamo chi c'è. L'ho sentito e sono stata salutati, dai. Ciao Maria, che l'abbiamo chiuso ieri. Io ero sempre, il mio era sempre acceso dalle 4 e Ruti. E non mi ricordo che l'abbiamo chiuso, è prima delle 8 era, diciamo era alle 8 meno 20. Meno 10. O meno 10. Una cosa del genere, hai capito? Però non abbiamo sentito nessuno, anzi c'era uno che ha fatto la battuta che lo abbiamo richiamato e non è entrato, sarà stato lui, no? Non penso che era Edu. Comunque lui, noi ce l'avamo dalle 7 e un quarto sino alle 8 meno 10. Vabbè, comunque, no, Giardino, se non la ricordo di prima, ho poco da disturbare con questa antenna, che non è ma poco, da studiare, la metà da un po' di forza, da studiare. Però, ma disturbi a te o agli altri? Penso che disturbare a voi, no, non si trova da nessuna parte, sono vero, la Maria niente, cioè. Anzi, ti dirò, sono accendo il televisore e mi sale un po' il cuore. Ah, va bene, stai arrivando a Santiago 4, Gio Maria, ho risolto io, per il DVI, ho cambiato, con un amico ho cambiato i fili di antenna, sia miei che quello di mio padre, adesso può sparare quanto vuole. Io ho fatto un bel lavoro, abbiamo fatto un bel lavoro, e prima avevo paura sempre di accendere per non rompere agli altri, capito? Non per me, no. Ma per gli altri lo facevo, e entravo poco e niente, e poi a minimo quello poco che parlavo mettevo a minimo, però disturbavo ugualmente, invece adesso tranquillo e pacifico, va benissimo, capito? Grazie. Guardi, se mi c'è tutto il manzano, però ho cambiato tutto, per cui va benissimo. Luca è in condizione precaria e purtroppo diversamente non lo può fare, sennò avrebbe fatto, però già sta entrando poco lui. Comunque, per quanto riguarda per fare il campagna, dopo praticamente un attimo amico che farà il centro, il 31 ottobre. Cambia, però c'è il corso, dopo c'è il corso. Vedrai che è prima, vedrai. Magari è arrivato così, però noi aspettiamo finché si può fare lui. Che c'è? Tanto fretta non ne ho. Ne devo devo tagliare altro po', però quella che c'è, quando si può bruciare la brucio, capito? Per adesso non la tocco, capito? E per cui sono tranquillo, capito? Ma non la tocco, la puoi buttare in giro, non che c'è via... L'anno scorso mi sembra che ho bruciato l'8 o il 9 di ottobre. L'anno 31 di ormai. Beh, 31 di settembre. Di ottobre. Di ottobre, ma non può essere. 31 ottobre è difficile. Prima sì, ma 31 non è possibile. Perché in ottobre comincia a fare tante di quelle piogge, per forza ne cadono le regole, capito? Adesso vedrà se continua a piovere e vedrà che a fine mese si può bruciare. Ma riprendo io un attimino, è che così vado a farmi la doccia, che sennò poi faccio tardi. Vi saluto, se coincide è più tardi, ok? Riprendi Giovanni, ciao a tutti, ciao Tore, ciao. Ciao, ti saluto Riccardo, dai, ci sentiamo. Saluta quella persona e ci vediamo. Vai tu. Sì, ok, ciao Tino, stammi bene. Alle prossime. Già capiterà più spesso, ora tanto ormai. Il tempo sta cambiando, quindi al mare ci parla di meno. Ciao a tutti, ciao. Ciao a tutti. Ok, ciao. Capito lui. Frecciano ce n'è, tanto dobbiamo tagliare ancora, Dobbiamo tagliare ancora, per cui forse alla settimana entrante, un paio di giornate bisogna farle, per cui almeno la posso bruciare tutti insieme e non se ne parla più, capito? Ha chiuso già. Questo. Piano piano. Penso che tempo buono ne fa ancora domani, quindi mi conviene più. Bruciare più avanti. Io frecciano, tanto ancora erba non ce n'è, l'erba comincia a crescere adesso, ma a quando a bruciare non mi interessa, capito? Per cui siamo subito a fine mese, dovrebbe girare, e le giornate corrono, per cui ce n'è tempo, capito? Vediamo un po'. Adesso si può bruciare, brucio, sai cos'è? Mi scoccia che fa andare, fammi l'autorizzazione e aspettare a loro quando vengono a fare a vedere, perché vengono loro a vedere cosa devi bruciare, cosa no, capito? Faccio questa maniera, aspetto e non so aspettare da loro e guarda, devo bruciare, brucio, capito? Vabbè. Aspetta a vedere se c'è il signor Bacchisio. Senti il signor Bacchisio. Lui come sempre. Quello riaccende, non riaccende. Ma si sa se è acceso ieri oppure no? Non lo so. Ma si pure si è già accendo. Bacchisio. Lo sa cosa è convenienza che c'è da baracchino, Luca! Vai Lu, la mattina ne esce. Stamattina ne è uscita senz'altro e non si è uscito? È meglio in compagnia, lui non si sta male, sa fuori, non si sa come, cosa può succedere, meglio essere sempre in due, ok, bene bene. Gio Mari, io devo andare a prendere la signora, ci sentiamo dopo, fra 10 minuti, un quarto d'ora. Io la si acceso, io per alle 8 la si acceso, dopo se non c'è nessuno chiudo, ok? No, è così, è lui. Ma però adesso comincia a essere più magra perché mette le uova, capito me? Oh, già è buona ancora, dai, poco. Ma boh, erano cazzo, buonissime, poi le cose selvatiche che sono sempre più buone lui. Grazie, erano buonissime, saporite, mentre quelli di vivai non hanno sapore, no? Si mangiano, però non è come questi che si raccolgono, capito? Questi qua che raccogliamo noi sono più saporite, capito? No, va bene anche quegli altri, manca l'altro. Vanno bene con gli altri, no? Sì, ma è facile, grazie. No, vabbè, tanto io stavo andando a quanto capito un po' per Lumacone. Anche per Lumacone. Sì. Vai lui, se non c'è niente a fare bisogna andare. Che cosa fai a casa Lampado? Vai e ti fai qualche cosa, capito? Fai bene lui. Bisogna uscire. Giovane. Io non so. No, chi ha chiuso che fare cosa? Ah, ma io già ho fatto una cosa. Almeno su bro mi mangio il pane, mi piace anche di quell'altra maniera, aglio per esempio per il cibo, su frissato di là, però preferisco più un cucinato di la cassura con i malattati che è meglio, dai. Guarda che ti ho mandato qualcosa che ho mandato su WhatsApp, bene, la precisione regionale è adesso me lo leggo, dai. Ciucu ciucu. Samarisce, è rientrato. Ah, arrivato, certo. Hai fatto in fretta, eh. Hai visto, te l'ho detto. 10 minuti, un quarto d'ora al massimo. Vediamo un po' se è rientrato Bacchisio. Bacchisio! Oh! Cazzo, chi si è ritirato tutta l'epoca che ha fatto il comandano? Sì, a peso mio, sì. No, se no sei auto con il Gaffuno, da Rogaraggio a Casa Giulia. Ma... periodo che è un po' poltrone, ma forse deve essere da farato, farà per quello che non sta entrando, dai. Se vuole entrare già entra. E chi dice di no? La porta è aperta sempre, se vuole entrare uno, basta bussare, siamo qua, e così via. Così è. Luca mi sembra che sia andato a farsi la doccia. Luca, ehi! Davvero, davvero! Questo che davvero, qui chi lo dice da voi non entra, E allora? Ma c'era la trasmissione così e poi Ginnanda. Per carità, anche lui è stanco, poverino, bisogna lasciarlo riposare. Che sta qua là, ha chiacchierato troppo oggi. Ha detto che non gli piace entrare, l'ho preso. Mi sembra che la questione sia. Meno male se siamo noi che la manteniamo un po' dritta. Però si capovolge da voi la questione seria, Ah sì, sì, andate così, andate, vabbè, se vuoi entrare, entra, se no. Si sanno dove sono. Eh beh, Ciao Grive. Mi ha mandato un coso, un avvocato graziano. Cazzo. E quella moglie ha abbracciato in un faro di mare, in un faro. Io e Anna ha abbracciato e tutto il faro, ma quando faccio vedere. Vabbè, avevo detto, ha fatto anche il foto, la moglie l'ha regato in giro. Ma non mi ha specificato, dire che c'è un faro, non lo è. Perché fare registro a tanti, ma fare qua vicino mi sembra che non ho... No, lo so, a dormire. Ah, mia signor Bacchisio, mi era ora, certo, e nella GTN, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a Gian Maria, buonasera anche agli ascoltoni. Signor Bacchisio, mi è entrato, buonasera. A me mi sembra che sia un poco mandroni, questa voce a Bacchisio. Sicuro, sicuro, mandroni. Capito, mandroni, mandroni. A quanto vediamo che cazzo Bacchisio, cazzo, se il ritirete tutta l'epa che ha fatto il Comandaro, se il ritirete il paese ancora non è entrato. Finito hai adesso, sì? Stavo imbottigliando, stavo imbottigliando. Ah, te io stamattina presto sono sceso a innaffiare Bacchisio. Arriva a casa verso l'otto Bassani e ti regolare un po' strano, mi pare che fa anche la macchina mi si è pulito. Arriva a casa e comincia a fare Eva. L'ha fatto io, l'ha fatto una vita abbassata. Ha proprio a due mani ha fatto. Te l'ho detto io. Come se te da parte te l'hai un po'. Era tutto a barra l'aria, per cui che ha fatto Sì. Va bene così, Bacchisio, lasciamolo fare che fa sempre bene. Quando piove così ci va bene, male quando viene a temporale, trascina, fa. Era così è andata bene. Questa era bella, era bellissima. Ora è già cresciuto, è già un palmo. Ma chi già gliel'ha portato da 30 arbitoni che ci ha fatto il romanzano? E allora tutta ritirata che c'è, va. Cazzo, ne vuole approfittare, almeno dopo lo paga. E me si è imbottito tutto. E me si è imbottito. Capito? È come la questione di una vicina di casa, no? Si lamentava perché il babbo tendeva il cammino. Questo cammino c'è stato meno di 50 anni. E sono venuti a abitare una famiglia al palazzo a 30 metri da qua, della cortile. E si lamentava del fumo. Mi chiamava sempre, adesso babbo, parlaci tu, non è la competenza mia, è la competenza tua. Sai, vedete babbo, dice, ascolti, dice lei, il camminetto non può accendere perché il fumo viene tutto, dice, nella mia facciata, la voglia di fare, ma lei l'ha comminato, la compra, dice sì, allora quando svuota le bottiglie non le butti, ci metti il fumo dentro, se la conserva. Certo, lì c'è bella, Arma così, c'è un rimone, se ne abbrigando buco. Metti fuoco a casa. E un altro, mi. Stasera, Gian Maria, tutti li intendimmo, mi amici. Vabbè. Lui si è preoccupato, era della Hawaii, era così che oggi è rientrato e allora l'ha acceso, capito? Ciucu ciucu, oia, ciacca ciacca e... Sì, veramente l'ha accendo tutti i giorni, ma non c'è mai con cane a palacchino. Ma ci ho comprato due baracchini, vanno tutti in città. E non c'è mai con cane. Ti già me ne faccio i soldi, che cosa è meglio. Almeno fa la baracca, 50 euro a collo, e 15 minuti a me non mi diverto. E come modulare il baracchino è divertissimo. No, qui c'è come sei graziano, mi. Ci ha mettendo per Marisciulo. Sì, dici che sempre ci amendi, perciò non ci ammane mai. Magari frusciani e non si va a intervenire, è chiaro che non lo rispondi, no? E così fa di Antonello. No, vabbè, io chiamo su 23. La verità, non è che non chiamo. Ha detto anche PMR, figurati tu, ma non risponde mai nessuno. Sembra un canale di cose, ma c'è un sacco di gente. Allora, ma sempre la sera, penso che guarda, penso che siete solo a casa, ma non che non stia facendo qualche cosa. Giovanni già lo sai, se no entro tutti i giorni io. E guarda, ci trovi, a noi ci trovi, dopo le 7, a me a Gio Maria. Giusto Gio Maria? Ma io ci sono a casa, è sempre acceso l'apparecchio, sempre acceso. Dalle 9 io la chiudo e lo spengo prima della 1. Dopo la sera lo accendo verso le 4, 4 e mezzo. Ma quando chiamano, se chiamano va bene, ma se uno fischia e quando li posso, male li posso fare un fischio a chi e basta. E uno deve anche chiamare se vuole sentire qualcuno, no? E non è che fischia e basta. E basta chiamare, c'è qualcuno sul canile. E se c'è qualcuno ti rispondono, se no non ti rispondono. Vero Bacchì? Così, conoscere Antonello, ben ascoltato anche a lei. Ma Antonello, tu devi entrare tra le 7 e 7 e mezzo, perché poi c'è la staccata del primo frigone. Ehi, aspetta. Ma... vabbè, se entro da quello, ma entro anche prima, che c'è, ci sono anche la sera io. Ci sono anche la mattina a volte se non vado in nessun posto. Comunque, a Gio Maria adesso mi dice, la mattina quando entro, su 23 gli metto musica. Così me lo sa che sono io, gli attacco la musica e così tranquillo. Avanti Claudio, buonasera. Buonasera a tutti. Un interrogativo per Gio Maria e poi chiudo perché sto entrando adesso e sono stanco molto. A parte l'interrogativo, io Giovanni quando fischiano, che siano le 23, che siano le 10, che siano dove siano, io non mi chiamo Bruscio, basta chiamare, attenzione che alle 10, attenzione che alle 23, come faccio io, e uno risponde mentre di tu. Chi c'è cosa di bruciare a me, no? O schiacciare la portante, chi è avanti e non risponde, piglia a dire in gomma le vostre mani. Ascolta Giovanni, tanto buonasera a tutti, ciao Ottore, Marchisio, Antonello, e a te Giovanni, a chiunque fosse in ascolto. Oh Giovanni, mi devi dare una cifra per quella cosa là, cerca di capirmi, perché la devo proporre però non so la cifra. Ah, ho capito. Ti ho detto che è completo anche quello grande. È 4 e 5, dai, gli do anche quello grande, il microfono pure, dai. 45 è compreso di cos'è? 60? Eia! Ti faccio sapere. Ok? Va bene, d'accordo, dai. Era giusto per avere un'indicazione perché non sapevo come proporla. Capito? Ok, dai. Buon proseguo a tutti e ci sentiamo in un altro momento perché sono stanco molto, sto rientrando però in campagna anch'io. E già basta le bagagli ubiliati oggi. Perché abbiamo iniziato lavoro e purtroppo dovevamo finire. Va bene, dai, riprendi tu Giovanni, ciao Tore, ciao Bacchisio, ciao Antonello, chiunque fosse qua sul canale 23. Vai Giovanni. Ok, d'accordo, qua ci sentiamo. Grazie, mo qui già. Ok, d'accordo, vai Tore. Ok, ciao Claudio, ben sentito. Ci sentiamo. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao Bacchisio. Ciao Claudio, buona serata, grazie per essere entrato per salutare. Alla prossima. Avanti Antonello. Ciao Clara, ci sentiamo domani o dopo all'inizio, se non c'è problema. Anda bene, mela. Ok, capito, è Antonello. Infatti, uno deve chiamare, basta, a dire, c'è qualcuno in frequenza, se c'è qualcuno, senz'altro risponderà, ma se uno fischia, può essere anche provando con il microfono, l'apparecchio, capito? Invece se chiama uno, se c'è, gli risponde. Perlomeno io la penso in questo modo, poi ognuno fa come crede. Così è, ma chi? Infatti io chiamo quando sto salendo la campagna, nessuno mi risponde. Il contadino non ascolta nessuno. No, guarda, se acceso che tu chiami, capita, io ti rispondo, ma perché anche molte volte ti chiamo io, anche Tore, però Macchiso, Macchiso con il apparato, vero Tore? Infatti, ed è così, se no ti abbiamo infavidato. Non si sente? Brecco, buonasera. Attenzione al signor Marino, avanti questo brecco. Buonasera, signor Marino. A te, ciao Giovanni, ciao Antonello, buonasera anche per Macchisio, avanti Macchisio. E sono anche amico Claudio, sono il tuo via, avanti Macchisio. Ciao Marino, buona serata. E allora, tutto ok? Tutto ok, domani mattina finisco tutto, Macchisio, domani mattina. Domani. Che quest'acqua ha un po' scocciato, ma come finisco e sono più tranquillo, avanti. Ok. E quando vuoi passo a prendere la pianta, Quando sei a comodo passa e te la prendi. E questi giù intendo da salire, per farmi due i cappelli e poi ti chiamo e scendo. Avanti. Andà bene, dai, avanti, domani. Che salutiamo al marito, buonasera, ben risentito e grazie ai saluti da Gianuario, ok, vai tu. Maria, lo so io dove te la devi prendere. Sempre l'ho messo, vai tu, sempre l'ho messo, sai, io ti voglio bene, intanto il padre va fuori con me, scusa, sono più piccolo, babbo, a me sono bello. Tu sei peggio di me, sei troppo vicino al microfono, abbassa le voci, mi sembra in casa cosa, mi sembra. Gianni capiva il muro quando parlava con coso, non capiva la banca quando parlava, sei troppo alto, sei tutto bu bu bu bu bu bu bu, abbassati per il microfono. Sì, l'ho passato adesso, vai, già va bene. Ok, avanti, stai girando. Ah, adesso sei a posto, ma c'è, ma fa male. E ora? Come andrà? Andrà bene, sono contento. Ok, non sapevo che stavo nel posto di Gianmario, non lo sapevo, stavamo parlando l'altro giorno, ma adesso sono fine, ma tu è così, va meglio così, meglio dai, speriamo che entri, dai, piano piano, con pazienza, avanti Gianmario. Infatti era qua con la moglie, me lo stava dicendo, sapevo che sul lavoro eravate insieme, capito? Grazie, che lo siamo, io ti ringrazio per i saluti e così via. Bene, ma com'è tutta questa assenza? Impegnato ieri, no? Lavoro in corso, domani lavoro in corso, dopo la sera lo lasciamo e poi arriva gente, una cosa all'altra, poi un frivottato e poi arriva gente, non solito, non hai capito? Logicamente, se viene gente non può lasciare come gli altri, tutto qua avanti, Giovanni. I pesi sono più importanti della fatica, per cui bisogna fare così. Prima gli impegni, dopo solo i piaceri. Bene, signori, io le devo approfittare, vi devo salutare, chiudo, perché sono già quasi le 8, che la signorina mi sta chiamando. Per cui ti ringrazio per essere entrato, Mari, buon proseguimento, saluto in casa, alle prossime. Ciao, che sia il Macchisio, saluto in casa, Macchi, e fatti sentire più spesso, anche quando ti muovi da campagna. Se faccio qua. E ciao Antonello, buon proseguimento, Tore, riprendi tu, io ti saluto e buon proseguimento serata, domani sei qui Cina, vai Tore. Ok, ciao Gian Maria, domani, ci sentiamo domani, ok. Alle prossime, riprende Bacchi. Salutiamo Gian Maria, buonasera Gian Maria, buon giovedì, saluta la signora, a domani tutto va bene. Benissimo, ci è rimasto Antonello. magari ci sentiamo. Comunque, buona cena, buon tutto e buonanotte. A domani. E andrà bene mera. Ero la bacchetta, quindi stai facendo l'agricoltore di piante, stai facendo. Lavoro in corso, lavoro in corso. Dai Antonio, se mi sei venuto a tiro, hai per caso qualche microfono buttato di un pony? Un pony che pony è? Sei canario 23? Mi sembra che sia uno spinotto, se non mi ricordo, a tre o a quattro. Maschio, se non mi sbaglio. Quindi sei canale portato. Ci vuole un microfono per l'ascolta. No, microfono per l'ascolta non ne ho neanche uno. Non te l'avrei neanche regalato, ma non ne ho neanche uno di quelli. Già ho capito. E mi sa che l'unico che ce l'ha era GBC, quel tipo di microfoni. Poi, vabbè, Fusano, già lo sai che è morta c'era Giovanna adesso, quindi... Oramai è un casino, no? Cioè, c'è Giovanna che capiva molto, molto più di mazzi, eccetera, eccetera. Perché stiamo cercando di alzarne uno, di mettere il microfono esterno, di mettere l'altoparlante esterno, e alzarne un microfono, è un troppo lavoro, troppo casino c'è. No, vabbè, non me lo vuoi fare tu, viene male dire, già ti ho capito. Ci vuole per forza il microfono per l'ascolta. Ci vuole uno di quelli della Midland, viene che a Tonino la GBC, lui ce li ha, di quei microfoni per l'ascolta per portarli. E quindi sei più tranquillo. Io non ne ho più neanche uno, ne avevo uno e cioè, non funziona nemmeno, tutto che devo via. Era di un portatile VU e quindi non va bene. Capito? Ci vuole proprio il microfono suo, ci vuole. C'è la capsula grande col coso, c'è la capsula grande per l'altoparlante e quella piccola separata. Cioè. Scusate se riprendo io. Ascolo, io Bacchi, devo chiudere che mi sono. Ci sentiamo, dai, alle prossime. Ciao Bacchisio, ciao Marino e ciao Antonello. Ok, alle prossime. Ciao Otto, ci sentiamo. Stavi bene, buon coletti. Ciao Ottore, salutissimi. Saluto la signora, domani. Ciao, buonanotte. Vai Marino. Sentono io, prima saluto Gian Maria, ben sentito, buon coletti. Sono in casa, domani sei con Cino. Ciao anche Ottore, sono in casa. A domani sei con Cino. Avanti Andrea. Mi ha salutato una cosa, stavo pensando, se vai a chi in qualche di quelle connette telefoniche che ci sono per una volta i carabinieri che stanno per l'ascolto, amici, c'è il bussantino, dovrebbe andare benissimo, se la piglia in Napoli, c'è una cornetta, la fa pure, ma se riesce a recuperarla, magari da qualche apparato di quelli vecchi, da vintage, da cosa, in via Reparatore. Capito, un microfono del genere, anche se non è un microfono così, ma anche una cornetta sarebbe anche bene. Ci voglio andare, è mai la tua idea. Oppure dal coso, dal napoletano. Oppure dal napoletano, al mercatino delle pulci. Quello usuario, lo sai, la capelli. A meno che non ti informi su internet, anzi fai una cosa che è meglio, non su internet, chiedi a tuo cugino direttamente, dici un microfono, mi ti manda fa l'ascolta e sei più tranquillo, spendi poco e te lo fai mandare. Sto spendo poco perché non ne pago, capito? Hai mi dato un'idea e poi lo chiamo, dico, procurami un microfono per l'ascolta per di me, cosa, per il volo. E lui già ci fruga, noi dovremmo ci affrontare le altre. E vabbè, poi per le connessioni passi qua due minuti e già ci arrendiamo noi due a farle. Non ti chiedo niente di soldi. Lo facciamo noi due col testa e piano piano, perché già lo sai che non è che ci sono quattro figli, ma cioè sono la bellezza di... Se mi ricordo sono 6 o 7. Comunque sia, tu buscati il microfono e... O magari trovi un coso, mi qualche apparecchio di quelli della media da modello vecchio, 40 canali su internet, che c'è il microfono per la scuola, te ricordi quegli apparecchi di modello vecchio? C'era uno, c'era portatile, 40 canali, che c'erano anche l'antenna esterna e l'antenna telescopica. Anche uno di quelli, mi magari lo trovi 20-30 euro, va a far culo, se la piglia in culo, ti pigli l'apparecchio intero e ce la piglia in Napoli. Ho capito. 7 furie, 7 ne ha, capito? Ne ha 7. No, mi sono divertito, l'ho trovato la portante, ho trovato la trasmissione, la ricezione, non sono riuscito a trovarla. No, guarda, ci sono passato anch'io, l'ho avuto anch'io quell'apparecchio lì, l'ho regalato, perché avevo le balle piene di stare a sventiare, ogni volta che andavo a fare la contazione o fischiava, oppure andavo a portare da solo, oppure fischiava ricezione o in trasmissione, quindi ho lasciato perdere, l'ho preso e l'avevo regalato, quel tipo di apparato. L'ho regalato, non volevo mettere in funzione, capito? Volevo mettere in funzione e l'ho avuto tanti anni fa, cioè il secondo apparato che ho avuto era il fumo, il 6 canale, era un trambicolo, poi il me ne prendeva a cassetti, qualsiasi cosa che entrava, una moto, passava una moto, si sentiva tutto. Se è passato di quella roba del genere, vabbè, ci c'è solo, non è che non ce ne siamo, ci abbiamo parlato del genere. Oh, ma noi ce l'avevi già nei capri 2, un microfono proprio originale, il problema è curare già nei capri 2, che io ho il numero di telefono suo, non ce l'ho, quindi non saprei come recuperartelo. Lui quel tipo di microfono ce li ha originali, ce l'avrebbe magari anche venduto o dato, non lo so. Lui quel tipo di apparati ce li ha. E a Tonino mi chiede un po' cosa consiglia di là. Capito? Andrà bene, le 8:05, sono già in ritardo. Io vi devo lasciare perché devo fare queste recche giù, è arrivata l'ora del merendero. Bene, ciao Antonello, salutissimi, grazie di essere entrato a salutare e a fare quattro chiacchiere, anche per Marino. Ce la vediamo, ce la sentiamo Marino, ciao, buona serata, saluto in casa. E Battista per istante ascolta Pinolino, passa in quel retino. Ti prendi Marino. Sì, ciao, ma che mi hai sentito, a domani se non ci dai, saluto in casa, avanti Antonello. Sì, ciao Batti, ci sentiamo, buon quel retino. A domani. Buonanotte e buon tutto. E allora Mari, cosa stai combinando di bello? Oh, niente, c'è un lavoro in corso a casa, in un casotto, qua, cosa sono le ferie, ma fra una cosa e l'altra è arrivato un casotto. Tagliato un po' la siepe, tagliato un po' di roba rintracciata, poi c'avevo un attore davanti di una veranda e così via, adesso domani finisco, ma no. Ah no, mi riposo un pochino, dai. Ah, meglio così, invece me la faccio, sono da fare la domanda per le... a fianco del cocenzo, già lo sai dove sto dicendo io, a fianco del cocenzo, e quindi non devo fare altro che scegliermi quello che voglio e capito, e loro me lo danno. Quindi adesso devo vedere, solamente sabato ci devo andare, voglio vedere cosa c'è, le curiosità più che altro, perché è roba nuova. Ah, esatto, ho capito, sì, esatto. C'era l'altro giorno che ho fatto il cassone della plastica, c'era Manuel Pes, già lo conosci, dai, avanti. E io poi lo conosco, Manuel lavorava con me, ha lavorato 12 anni, figurati tu poi che non lo conosca. C'era anche su internet come amicizia, l'ho chiamato l'altro giorno, mi ha risposto, stavo parlando, gli ho detto che la morta signora Giovanna Fusano, e siccome in pratica andavamo da lì a comprare i pizzi, no? Per fare impianti d'antenna TV, quando andavamo da Osai, cosa del genere, e quindi gli avevo accennato. Come è morta signora Giovanna, da poco? La settimana scorsa è morta signora Giovanna. E chi è rimasto adesso il negozio? C'è, come Brescia, Antonello, e poi? C'è Antonello Marzia, la madre di Marzia e il marito di Marzia, non ce ne sono altro. In pratica che è morto è Vittorio, se lo sai, è la sorella di Vittorio, San Giovanna, perché è signorina più che altro, perché la sorella di Vittorio era signorina, non si è mai sposata. Ok, vabbè, Antonello, guarda, prendo la pensione, io sì. Antonello non penso che vada in pensione, no? Lì rimane, sono sicuro, in pratica la vita adesso rimarrà senz'altro a nome della madre di Marzia, perché in pratica è così, poi ci sarà Marzia, il marito e basta, in tre rimarrà, sono rimasti. Ok, vabbè, poverino, va, anche lei non cade nel filo, poverino, già, un po' di vita da fare con l'ultimo, va, avanti. Sì, c'ho 90 anni e passa già per me, guarda che c'aveva un cranio che era una cosa allucinante, c'era Giovanna, era da poco, dice che si sentiva male o cosa del genere, evidentemente non so cosa del genere. Ma stava benissimo di solito, pensa proprio il cranio che era una cosa allucinante, ti diceva Giovanni, guardi, mi serve per dire ci sono questi due condensatori di questo lineare qua e quella che monta questo tipo di lineare, lei ha finito, mi ha fatto i calcoli, 448, dice piglia questi e caccia questi subito. Sì, già brava, già me l'aspetta, sì. Già la conoscevo, molto brava come personaggio. Sarà bravissima, poi molto brava come cosa esperta tutto quanto. È un cranio, un altro computer era, c'era in testa il computer lì. Sì, era veramente sveglia, ma veramente sveglia quella età lì. Poi il burro non so, magari non so se ha avuto magari qualche influenza, cosa del genere, che è stata male, questo non lo so, è che non ho chiesto niente, ho saputo solo da Daniele, in pratica sarebbe il fratello del genero, e quindi sono rimasto un po' secco, cazzo, ho detto, non mi sta venendo, ho detto, andiamo assieme parlando. Che lunedì mi ha chiamato, diceva è morto, ma lo sai come un coso, un baccalà. Senta, un attimino andasse, un attimo, come già ho detto, magari si è avuto qualcosa, qualche malessere, ormai è andata così, interessante che non abbia sofferto, dai, tutto qua, interessante che non abbia sofferto. Sì, ma voi, Antonello, precedito vai, Antonello di Ossi? No, no, non l'ho più sentito, da quando siamo andati a casa sua non l'ho più sentito, la verità. Magari stava ascoltando, non lo so, non è più entrato. C'ho i pezzi di perché li ho recuperati per quell'apparecchio suo e quindi ce l'ho da parte. Ma non l'ho più sentito. Se non vai a stare lavorchiando una cosa all'altra, sicuramente. Si sanno da fare, meglio magari, dai. È meglio così per lui. Io, non è stato male nulla, no, che è stata, non c'è nulla a Sassari, proprio non c'è niente, è morto, no, è diventato un paese Sassari ormai. Vai a chiedere, è un togliaio, no, non c'è nulla. Tu meglio a te Salvini che adesso questo registro di cittadinanza cazzo, dice adesso dovrebbe stare attaccato all'invano. Non ci sono imprese, che cosa vai a fare domande a un certo punto? Dico Salvini, vieni qua, ti metti qua e non ci sono problemi, dico me. Ti siedi nell'invano, una settimana, vedi se c'è qualche azienda che assume a un certo punto. O andiamo a fare i pastori mio, o andiamo a rubare, dove sono le cose. L'unica, esatto, è un casotto, non c'è da fare, lavoro non c'è lavoro, non c'è niente da fare. Beh, ti sta chiamando, ok Antonio, ti lascio che mi stanno chiamando. Bene, ciao Antonio, sono in casa, dai, sentiamo, grazie per la chiacchierata, a domani, dai. D'accordo, a domani, ci stiamo. Buonanotte, buon tutto e buona cena. tutto ricambiato, ciao ciao. Via, ciao.